Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Bagarre questa mattina sui temi agricoli a Strasburgo. È arrivato lo stop del Parlamento europeo alla controversa proposta della Commissione sulle sementi. La plenaria ha respinto il testo quasi all'unanimità su proposta del Presidente della Commissione Agricoltura, l'italiano De Castro. Dopo il voto sono anche state chieste le dimissioni del commissario europeo. Il regolamento proposto dalla Commissione contiene condizioni che regolano le sementi consentite, ma secondo i più accesi critici sarebbero restrizioni per specifiche specie locali contro il rispetto della biodiversità. Una messa al bando, insomma, secondo gli eurodeputati dell'orto di casa. Il più critico nell'emiciclo di Strasburgo, José Bové, il leader francese dei Verdi. E intanto a Bruxelles ancora sul tappeto ci sono i temi economici. Dopo l'Eurogruppo di ieri, oggi l'Ecofin, si cerca la volata finale per un accordo sulle banche. I ministri delle finanze europei stanno negoziando oggi qui a Bruxelles gli ultimi difficili e controversi aspetti del nuovo meccanismo di gestione delle crisi bancarie. Il negoziato è complicato anche perché coinvolge il Parlamento. Un accordo deve essere trovato entro breve, prima delle prossime elezioni europee di fine maggio. Gli aspetti più controversi di un tassello cruciale dell'unione bancaria sono la mutualizzazione e la capitalizzazione del fondo di risoluzione, il processo decisionale al momento del salvataggio di un istituto di credito e il ruolo delle autorità nazionali. Sempre oggi gli stessi ministri delle finanze hanno compiuto passi avanti sull'annosa questione della direttiva risparmio. Austria e Lussemburgo, che da tempo bloccavano il testo legislativo, hanno dato un loro primo benestare stare di massima a una direttiva che imporrà lo scambio di informazioni sul reddito dei non residenti, anche per quanto riguarda il reddito da interesse generato non solo da conti bancari, ma anche da contratti di assicurazione e fondi di investimento. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Nelle stesse ore questa mattina è arrivato anche il rapporto dell'OCSE. Numerosi paesi della periferia dell'Eurozona sono a rischio deflazione, scrive l'organizzazione. L'inflazione nell'area è scesa ancora al di sotto degli obiettivi e resterà probabilmente molto bassa per un periodo esteso, dato che la ripresa sta appena partendo. L'attività nell'area euro sembra migliorare, aggiunge infatti l'OCSE, ma per adesso lo sta facendo più tardi e a un passo più lento rispetto alle altre grandi economie. E parlavamo di agricoltura in apertura con l'acceso dibattito. Ebbene, nel frattempo il vecchio continente spinge per più frutta e verdura per i bambini europei. Con l'America che inverte la tendenza dell'obesità e l'Europa invece sempre più a rischio, da Bruxelles arrivano fondi per insegnare come mangiare nelle scuole. Portare frutta in classe gratis ai bambini delle elementari è il progetto che l'Unione Europea finanzierà con 150 milioni di euro. Raggiungerà quasi 26 milioni di bambini europei. Per i 2,8 milioni di studenti italiani il finanziamento si aggira attorno ai 16,7 milioni di euro, con un tasso di finanziamento europeo dell'80%. Mangiare più frutta fresca è uno dei passi centrali per contrastare l'obesità infantile e migliorare le abitudini alimentari. Nell'Unione Europea l'obesità colpisce un bambino su tre, tra i 6 e i 9 anni. I finanziamenti serviranno a coprire il prossimo anno scolastico 2014-2015. Tra i primi beneficiari della misura, oltre all'Italia, ci sono Francia, Germania e Regno Unito. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa che si allinea all'Italia sul fronte intanto delle buste di plastica, quelle per intenderci per la spesa. Votata dalla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, la possibilità di tassare o di mettere al bando gli shopper tradizionali, come in sostanza già previsto nell'esperienza italiana. E allora l'appuntamento con l'Europa anche per oggi termina qui, ma vi ricordo, vi aspetta come sempre a Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.